che non ammettono interpretazione alcuna. Chiedersi perché non si scrivono tutte canzoni così romantiche, senza andare a toccare tasti che forse in una canzone non è il caso di toccare. Me l'hanno fatta questa domanda, ma il fatto è questo, che sui giornali, alla televisione, alla radio, così, si leggono oppure si vengono a sapere cose, fatti che suscitano in un individuo determinate reazioni, come io sono individuo, gli altri, qui anche in me suscitano queste reazioni, siccome sono un compositore, queste reazioni finiscono per fare, finiscono per poi essere estrinsecate in una canzone. Vedrai, non sono finito, sai, non so dirti come e quando, ma vedrai che cambierà.